Il difficile lavoro della sentinella. Leggo in Ezechiele capitolo 33 versetti da 7 a 9. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio: Empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Immaginiamo di avere la certezza assoluta di un pericolo incombente. Che cosa faremmo? Certamente cercheremmo di avvertire il maggior numero di persone possibili. Ora immaginiamo che gli altri, invece di prenderci seriamente, ci deridano e continuino ad andare incuranti verso il pericolo. Sarebbe certamente frustrante, vero? Dio aveva incaricato Ezechiele di essere una sentinella per il popolo di Israele. Il suo compito era quello di avvertire. Se lui non avesse avvertito, sarebbe stato colpevole perché non avrebbe svolto bene il proprio compito. Ma se lui avesse avvertito e non fosse stato ascoltato, non sarebbe stato ritenuto colpevole. La sentinella si trova in una posizione in cui vede il pericolo che gli altri non riescono a scorgere ed è tenuta ad avvertirli. Ma se gli altri non si curano dei suoi avvertimenti, cosa potrà fare la sentinella? Potrà insistere, potrà anche supplicarli di ascoltare, ma non potrà obbligare nessuno a dargli retta. La condizione del cristiano è in qualche modo proprio la posizione della sentinella. Ci sono delle volte in cui la sentinella è stanca di avvertire e di non essere presa sul serio. Verrebbe la tentazione di lasciar perdere, di arrendersi. A volte la sentinella si sente addirittura in colpa perché vede che nessuno ascolta, inizia a pensare che forse è colpa sua, che dovrebbe cambiare metodo, avvertire in una maniera più attraente, più convincente. Ma la sentinella deve ricordare che c'è un solo caso in cui deve sentirsi davvero colpevole, quando non ha svolto il suo compito, quando non ha avvertito. Come cristiani siamo sentinelle che non devono mai stancarsi di avvertire, anche se a volte può esserci un po' di frustrazione nel vedere le nostre grida cadere nel vuoto. Non scoraggiamoci. È un lavoro difficile, ma dobbiamo farlo. Anche se i più non ci ascolteranno, ci sarà sempre qualcuno in mezzo al popolo che presterà ascolto. Anche fosse uno solo in mezzo a un'intera città, se il nostro grido fosse servito a salvare la vita, anche solo di una persona, ne sarà valsa la pena. E a coloro che non credono, cosa posso dire? Continuerò a stare al mio posto di guardia. Vi avvertirò del pericolo che incombe. Continuerò a farlo anche quando mi direte che devo stare zitto, anche quando mi prenderete in giro per questo. Forse arriverete a disprezzarmi e ad insultarmi, ma cercate di capire. Se io stessi zitto, che sentinella sarei?